Benvenuti a tutti e a tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sugli 87.9, potete ascoltarci anche in streaming attraverso il sito della radio www.ondarossa.info. Un saluto più caldo, anche se fa caldissimo, quindi più fresco, direi, a tutti coloro e a tutte coloro sono privati della loro libertà personale. Vada questa voce. Sono stata molto confusa in questi giorni. Perché? Per un po' di cose mie personali e poi anche per preparare la puntata. Sì. Ho aspettato fino all'ultimo. Fino all'ultimo. E non sono riuscita a fare niente praticamente. Proprio a fare praticamente niente. E ho rivisto però per la seconda volta il film di oggi, di cui parleremo e di cui ascolteremo la colonna sonora, molto bella, molto particolare. E nonostante la seconda visione, non sono riuscita a trarre nuovi impulsi, se non gli stessi che ho avuto quando l'ho visto la prima volta, cioè il sentire ciò che si sente. A me, questa è tutta una cosa mia personale, sì. Quello che sento io quando guardo un quadro, quando vado in un museo e guardo un quadro, no? E, cioè un senso di astrazione, anche quando poi nei quadri non sono astratti effettivamente, sì, sono, sì, dei paesaggi, sì. Io sento un senso di astrazione, mi perdo nella visione, nella contemplazione, quello che mi succede di fronte a delle opere d'arte che mi colpiscono, ed è stata la stessa impressione che mi ha dato questo film anche la seconda volta che l'ho visto, perché ho detto mo lo guardo la seconda volta, avrò delle altre sensazioni. Poi no, quando vedi un film in un, sì, periodo rispetto, sì, a un altro periodo, provi delle emozioni diverse, invece no, sempre la stessa cosa. E che è un film che più che un'opera cinematografica è un quadro in cui l'estetica della fotografia ti intontisce e per la cura, per la bellezza. Questo è ciò che ho provato guardando questo film. Ne parleremo poi oggi e ne ascolteremo anche le sonorità, come dicevo prima, molto particolari, anche un po' invernali, quindi porteranno un po' di frescura in questa calura estiva e molto di atmosfera, come abbiamo detto insieme, Federico. Ecco, proprio a questo proposito, Ottavia, intanto lo diciamo che... No, aspetta, fammi finire, okay, l'incipit. Va bene, allora... Curate particolari e d'atmosfera, queste sonorità di questo film, curate dallo stesso autore, che è una cosa molto particolare, non mi c'era mai successo. E che è qui con noi e che è Piero Messina, autore del film L'Attesa. Salve, ciao a tutti. Allora, devo dire che io avevo proposto questa cosa perché l'avevo visto all'Isola Tiberina qualche giorno fa, un paio di settimane fa, e mi ricordavo che con Piero ci eravamo sentiti a settembre in occasione dell'uscita in sala del film. Sentendo poi le musiche ho detto perché non Tracce di cinema, e però poi dato che sono poi tracce molto d'atmosfera, quell'atmosfera è fortemente legata alle immagini, quindi ho detto è un po' rischioso andare senza le immagini, però poi col fatto che ci sarebbe stato lui in studio ho detto Piero può essere un buon accompagnamento per quelle musiche. Sono d'accordo, vediamo se è così, vediamo se è capace, se lo famo nero oppure no. Posso cantarci sopra se volete. Sai, paura, sì, Pieri. Moltissimo. Allora, cominciamo con Arvo Part, che nella tracking list è in un paio di brani, che però poi mi dicevi, Piero, hai optato solo per questo. Sì, sì, sì, poi l'ho tolto all'ultimo momento e quindi ne è rimasto solamente uno di Arvo Part. E ci sentiamo questo. Thank you. Arvo Part, questa era Siluan's Song. Compositore estone, classe 1935, dice di sé: lavoro con pochissimi elementi, una voce, due voci, costruisco con i materiali più primitivi, con l'accordo perfetto, con una specifica tonalità, tre note di un accordo sono come campane ed è perciò che chiamo questo tintinnabulazione. Autore minimalista dal punto di vista musicale, al contrario di te che invece, Piero, di minimalista è molto poco, perché nel film c'è molto, ci sono tutte queste scene molto ricche, insomma a me mi ha ricordato molto il film nella sua costruzione scenografica, anche Visconti, pensa un po'. Ma grazie, cavolo. No, vabbè, questa è una delle cose più belle che ho sentito. Adoro Visconti e quindi è un complimento enorme che mi stai facendo. Sì, rispetto al minimalismo non so come pormi. Penso che comunque, nonostante la ricchezza visiva che il film espone anche in maniera smaccata in alcuni momenti, sia un film nei ritmi, nel modo in cui respira, molto rarefatto. Sì. Ecco, forse in questa cosa si avvicina anche alla musica, a questo tipo di minimalismo sacro di Arvo Part, che è per me uno dei più grandi compositori, diciamo, viventi. Quindi lo apprezzavi e lo hai scelto, sì, per questo film? Sì, Arvo Part è un musicista che ho ascolto da, non dico da sempre, ma da molti anni, e infatti una delle grandi soddisfazioni che questo film mi ha dato, e come vi dicevo prima fuori onda, che mi ha scritto tempo fa invitandomi, fra due settimane andrò a Tallinn invitato dalla sua famiglia, perché lui vuole proiettare il mio film a Tallinn, considerandolo un utilizzo della sua musica adatto. Ecco, lui ha scritto, infatti andrò lì e proietterò il film a Tallinn, e sono molto emozionato di conoscerlo, perché per me è davvero un mito. Vabbè, ci credo, una grande soddisfazione, no? Eh sì, immagino. Cavolo. Allora, Piero, questo film, Globo d'Oro, un riconoscimento importante dalla stampa estera in Italia su un film italiano, come miglior esordio, come opera prima. Ci racconti un po' il tuo percorso artistico fin dagli inizi? Sì, io diciamo il mio percorso artistico è iniziato un po' per caso, nel senso che io ho iniziato a fare dei cortometraggi da ragazzino, avevo 14-15 anni, vivevo in un paese che si chiama Caltagirone, e quindi passavo i miei pomeriggi con gli amici a fare jam session in garage o sì, perché ricordiamolo, Piero è anche autore di molte tracce all'interno del film. Cioè, suoni che suono male tutto, vuol dire che ho puntato sulla quantità tendenzialmente. Direi. No, però nel senso ho studiato, l'unico strumento che ho un po' studiato è la tromba, gli altri li ho un po' imparati grazie al fatto che sono una persona ossessiva, quindi quando si mette a fare una cosa la fa ogni giorno, tendenzialmente la impara, e quindi no, diciamo, ho speso la mia adolescenza suonando in questo garage, e qualche volta con la telecamera dei nostri genitori, che erano le VHS, facevamo questi video veramente demenziali, ma l'unica nostra ambizione era quella di mostrarli poi la sera a noi stessi ubriachi, e la sfida era quella di fare la cosa più stupida possibile per poi riderci. Questa era, diciamo, la nostra, e quindi non avevo mai pensato di fare questo lavoro, se non poi a 18 anni ho realizzato il mio primo cortometraggio, sempre fatto in maniera molto amatoriale, che però ebbe un minimo di successo nei festival. Terra è molto dopo, si chiamava Stidda Cacurri, era un corto non più demenziale, per la prima volta avevo, diciamo, mi ero spogliato della almeno apparentemente, no, del mio lato demenziale, e ho fatto questo cortometraggio che poi vinse il Festival di Taormina, in giuria c'era Sorrentino che amò molto quel cortometraggio, e quindi per la prima volta vidi, ecco, io ricordo ancora quell'emozione di vedere una cosa che avevo fatto, e il pubblico non erano più i miei amici ubriachi, ma era un pubblico lucido che si emozionava, e a quel punto ho detto: questo è quello che forse voglio fare. Sì. E da lì poi ho fatto diversi corti, fino ad arrivare a Terra, che in realtà è l'ultimo corto che ho fatto prima del film. E beh, poi negli anni ho studiato, ho fatto il centro sperimentale, diciamo, ho perfezionato un po' la mia formazione, ho avuto la possibilità di fare l'assistente per due film a Paolo Sorrentino, quindi che ti ha influenzato non poco anche all'interno di questo film, ci sono molte citazioni a Paolo Sorrentino. Lo lascio dire a voi, tendenzialmente io dico sempre che tutto ciò che mi ha emozionato, tutto ciò che mi ha nella vita, che prescinde dai film, sì, le cose che ho visto, mica c'è niente di male, no, infatti lo sto dicendo proprio come poi alla fine lo ritrovo in quello che faccio, ma me ne accorgo anche dopo. Tendenzialmente quell'esperienza, come altre, è stata un'esperienza. Per quali due film? Ho fatto con lui This Must Be the Place e La Grande Bellezza. Sì, guarda, la cosa che razionalmente posso dirti di aver imparato, almeno razionalmente, poi quello che rimane e non so, sta a voi dirlo, però quello che razionalmente ho imparato è sicuramente, sono due cose. Uno, la gestione, diciamo, della pressione, nel senso che i film di Sorrentino sono dei set molto di grande concentrazione, quindi diciamo che ho abitato ecco, quelle tensioni, e quindi quando mi sono trovato a fare un film come il mio, che comunque è un esordio, però è un esordio anomalo, con un budget, con un'attrice importante, quindi mi sono reso conto anche i primi giorni che quel tipo di pressione la vivevo molto serenamente, e questo è stato anche grazie al fatto che eri abituato, ecco, sì, diciamo, avevo già una gastrite che si era sviluppata, l'erna iatale già era abbastanza esposta, quindi diciamo no, tutto già l'avevo precedentemente subito. E poi sì, il fatto di essere libero, nel senso che io, siccome ho studiato cinema anche teoricamente, ho fatto l'università, e mi ricordo che nei miei primi corti spesso quando giravo al monitor con me c'erano sempre i critici, la critica, cioè c'era rumore, c'era molto rumore attorno e quindi le mie scelte erano sempre influenzate da qualcosa che era anche di sovrastrutturato. Ecco, vedere Sorrentino sul set mi ha forse insegnato a fottermene, nel senso, per essere molto sbrigativo. Quando sono al monitor, le scelte nel bene e nel male le faccio solamente relative a quello che sto provando emotivamente. Tu sei del 1981, 81, vero? Sì. Sei giovanissimo, un film così maturo all'esordio, sì, già così maturo, è strano, eh? Quello... è strano, è incredibile, cioè per me è stato incredibile quando ho letto la tua età pensando al film, ho detto no, vabbè, non è possibile. Sono più vecchio di quello che sembro. Sei molto vecchio. Sì, infatti sono a fine carriera. Sei molto maturo. Dato, Ma guarda, la vecchiezza è una dote, eh? Una dote vuol dire saggezza, vuol dire tante cose belle. Sì, sì. Diciamo che le session a suonare in garage hanno formato molto. Sì, sì, anche l'alcol forse. Hanno bruciato anche molto in termini di neuroni, quindi noi sono invecchiati. Ora, dopo il Globo d'Oro come migliore esordiente, ambisco al primo alla carriera col prossimo, così chiudo. Vabbè, andiamo avanti un po' con la musica, per chiacchieriamo. Sì, rispetto al fatto che sei anche compositore delle tracce, ne scegliamo proprio una dalla colonna sonora del film. In cui Piero Messina suona ubriaco. No, io qua non suono in questo. Poi tutto parliamo di questa traccia nel caso. Oh, qui dice traccia numero 8, prima segreteria, ma non so se è il titolo esatto. Il titolo è un altro, non me lo ricordo, però quello è un titolo tecnico, diciamo, che è perché è una musica posizionata sulla prima segreteria telefonica del film. Volevo dire, rispetto a questo pezzo e rispetto ai compositori, vorrei citare i nomi. Sì. Allora, il pianoforte è Dimitri Stillato, che ha composto lui. In realtà questo pianoforte noi siamo chiusi in sala e Dimitri ha suonato il pianoforte, io gli raccontavo un pochettino il movimento della scena. Sì. E lui proprio in un take ha fatto questo pianoforte, che è la struttura del pezzo sulla quale poi dopo abbiamo costruito gli archi. Però il digetto è stato, diciamo, l'idea di Dimitri, che si è seduto al pianoforte e ha tirato fuori quello che è poi lo scheletro del brano. Gli altri musicisti sono Marco Mangani e Alma Napolitano. Quando voi dite io ho fatto le musiche, voglio dire le musiche sono fatte insieme a loro, nel senso che il mio più grande fallimento da regista è quello di non riuscire a delegare mai la colonna sonora a un musicista. E quindi va sempre così: inizio a collaborare con un compositore, poi iniziamo benissimo con una collaborazione fantastica, poi piano piano il discorso si inizia a rovinare e poi mando tutto, diciamo che finisce il nostro rapporto, il produttore mi chiama e dice il film deve andare, non in questo caso a Venezia, devi chiudere. E allora l'ultima settimana telefono sempre ad Alma e Marco per recuperare tutto quello che sono, diciamo, le persone con cui suono nella vita, a prescindere che dico, ragazzi, conoscono, sì, che ci conosciamo, ci chiudiamo tipo 4 giorni in una sala di registrazione e tiriamo fuori la colonna sonora. Okay. Quindi è una sorta di rapporto creativo che poi si conclude. Sempre così facciamo. Se avete la stessa età, cioè siete... la stessa età, io con Alma, la leggenda di mia madre dice che siamo nati, abbiamo qualche giorno di differenza, lei è stata messa nella culla con me all'ospedale perché mancavano le culle. Si dice questo. È siciliana cresciuti... anche Alma? Sì, quindi. Sì, del mio paese, e siamo cresciuti insieme, abbiamo iniziato a suonare insieme, lei è diventata una musicista pazzesca, io no, però... Non frequentava il garage? No, lei frequentava il garage, sì, sono cresciuto con lei ed è molto bello perché alla fine io sono disperato quando finisco un lavoro perché non ho la musica, ho appena litigato col musicista ufficiale e quindi telefono ad Alma, dico Alma dove sei? Lei è in tournée perché fa la turnista, sono a Milano, ok, mi faccio prendere una sala a Milano, vengo io, ci chiudiamo tipo 2 notti e c'è la colonna sonora del film. Lei è buonissima, che ti dà sì, è paziente. Vabbè, però fa anche però le musiche poi del film, cioè, è anche paziente, che viene chiamata, diciamo, come ruota di scorta. Sì, no, però lo sa che non è ruota di scorta, è il vero amore, cioè lo sa che invece quello non è il la prima scelta, però no, lo sa, però è un punto di riferimento. Te la prenderei. Guarda, te la farei la musica. Però secondo me lei sa che è un punto di riferimento imprescindibile. E Alma ha curato anche altre colonne sonore, tutte, a parte le tue? E questa è una cosa che io non capisco, nel senso che Alma e Marco hanno fatto la colonna sonora di tutti i miei lavori precedenti, cortometraggi, o quasi tutti. Loro stanno facendo un disco che secondo me è pazzesco, però non si mettono d'accordo, non lo stanno mai chiudendo. Io da anni quando li vedo, ma come va? Fanno sentire tracce noi, dico ma ragazzi sono stupendi. Però poi ogni volta passano gli anni, ancora sono lì a perfezionarli No, non hanno mai fatto, penso, altre colonne sonore, almeno che io conosca. Sono, diciamo, miei. Ecco, forse non. Senti, Piero, questo film, sei un poeta tu delle immagini, non sei un regista. È un po' offensiva questa cosa, ti offendi se ti dico questo? No, sempre meglio che vecchio. No, ma guarda, poi tu dici vecchio poeta delle immagini. Mettiamola così, No, va bene. Ma no. Un regista non cioè, sì, è bello il tuo film, racconta una storia anche un po', voglio dire, insomma, un tema un po' abusato, mm-hmm. No? Vabbè, poi magari raccontiamo la sinossi dopo. Fino a un certo punto si può raccontare. Sì, un poeta delle immagini, nel senso che il tema è proprio affrescato, dipinto, e poi certe volte si perde nella sua narrazione, perde un po' di... non voglio dire che perde di profondità, perché non perde di profondità il film mai. Però certe volte, no, quando uno è poeta dell'immagine, perde un po' il senso della storia. Ecco, non pensi che un regista dovrebbe raccontare più una storia che delle immagini? No, cioè, se è una domanda così diretta, io l'hai capito quello che voglio dire, però. No, però io sono contorta, non è molto semplice, cioè, lo capisco e ti rispondo rispetto a come la vedo io. Penso che il cinema, se bisogna parlare di cinema, è qualcosa che si sviluppa nel rapporto tra l'immagine e il suono, è vero, ed il tempo che l'immagine e il suono dura, e questo, diciamo, è la prerogativa di questa forma di comunicazione, che non è la letteratura, che non è il teatro, che non è, e quindi se io devo, diciamo, dedicare anni della mia vita per un film, voglio utilizzarne il suo, diciamo, la sua essenza, almeno, uh-huh. Che è quella della dimensione audiovisiva, ecco. C'è un regista che io amo, che si chiama Alexander Sokurov, che no. È per me più grande almeno come regista, e che dice una cosa bella, dice: nel cinema l'immagine è il corpo e il suono è l'anima, e questa immagine per me è perfetta, quasi come che se l'immagine è l'aspetto corporeo più fisico di un film, mentre nel suono c'è l'anima, c'è la parte più profonda, anche più intangibile di quello che si sta raccontando. Io tendenzialmente mi preoccupa ogni volta vedere i film che quasi hanno rinunciato non hanno più fiducia nel cinema. Io vedo questo, onestamente, che più si va avanti, più rispetto alla potenza dell'immagine. Sì, cioè quasi che non ci sia più fiducia nel cinema, in quello che il cinema può comunicare in termini, sì, di immagine e di suono. È come se poi si appiattiscono i film semplicemente sul loro livello narrativo, cioè cosa un film racconta in termini di storia, e tutto il resto è strumentale. Ecco, quando l'immagine o il suono diventa strumentale a qualcos'altro, per me è un piccolo fallimento di quel film, per quanto poi le storie possano essere bellissime, gli attori presi. Però ecco, se c'è una cosa che tu puoi raccontare in parole, è più bello andare al bar e me la racconti a parole, senza stare a spendere milioni di euro. E in questo è stata molto deleteria, secondo me, l'influenza televisiva. Sono d'accordissimo. Della fiction. D'accordissimo. Rispetto al cinema, sì. Sì, perché comunque si è abituato a vedere le immagini per essere anche più brutali, più piccole. Sì. E quindi quel tipo di potenza che il cinema può esprimere in una sala buia, certo, 9 metri, con tanta gente accanto, che è una cosa che ha il cinema, ormai non si usa più, cioè proprio anche lo spettatore non è più abituato a vivere quel tipo di emozione, quindi ormai il cinema è rimasto a una faccia messa dentro un'immagine, dentro un'inquadratura che dice delle cose, e questo secondo me è riduttivo rispetto a quello che il cinema può dare. E infatti rispetto al tuo film c'è un gran senso e un gran gusto nella composizione dell'immagine, questo è il regalo più bello rispetto allo spettatore, è quello che mi sono goduto di più poi nella visione, per fortuna su grande schermo lì all'Isola del Cinema, insomma. Sì, c'è quel gusto anche di meraviglia, ecco, che forse è un termine poco usato, no, ormai, vero, anche cioè io quando vedo un film alcune volte mi meraviglio anche della bellezza di ciò che vedo, e quel tipo di meraviglia, no, che è quasi un bambino che vede una cosa nuova, è qualcosa che il cinema può provocare anche agli adulti, ed è una rinuncia che non voglio fare, ecco, almeno per quanto mi riguarda rispetto a quello che farò. Infatti poi sono curiosa di parlare un po' del futuro, Passiamo a una. Il futuro di un vecchio non è morto. Non è morto in là nel tempo. Vabbè, quanto me la devi far pagare questa tutta cosa? Tutta la puntata sarà questa cosa del vecchio. My heart is beating in a different way. Been gone such a long time, and I feel the same. My heart is beating in a different way. Been gone such a long time. Will you miss me? My heart is beating. gone such a long time. My heart is beating in a different way. Been gone such a long time. The XX con Missing, Ottavia. Aspetta, che ti sei persa un po' per strada, però intanto chiediamo a Piero la scelta di questo brano. La scelta per due cose. Allora, innanzitutto mi interessava, e in tutto, come avete già ascoltato, mi interessava creare una colonna sonora che nascesse da una forte contrapposizione tra un'anima classica di soundtrack tradizionale e poi delle irruzioni improvvise di modernità, addirittura di pop, perché il film, poi adesso non ne parlo troppo perché non penso abbiano visto tutti, però tendenzialmente racconta questo incontro da due personaggi inizialmente molto distanti. C'è, cioè, questa donna che vive in questa villa fuori dal tempo quasi, e questa ragazza che arriva da Parigi, e quindi mi interessava quasi all'inizio raccontare i personaggi anche con una colonna sonora che è modulare, che si, bellissima, si inizia infatti quasi con Arvo Part, con Neifel, con questa musica sacra, e invece all'improvviso, dopo 10 minuti di film, irrompono l'XX, la musica pop, anche fotograficamente i colori fluorescenti, e tutto il film è fatto dal punto di vista del suono, da questa rottura costante entro Wu Tang Clan. Tutto c'è l'hip hop che si sovrappone alla musica di David Darling, che invece è un violoncellista, e mi piaceva moltissimo l'idea di sporcare, e questo pezzo pop era perfetto per quello che volevo fare. Il come ci sono arrivato? Ero in aereo, andavo a New York, sai che ci sono quelle librerie musicali, ne voglio intercontinentali, che tu ascolti la musica, e ho ascoltato questo pezzo che mi piaceva, che mi è piaciuto moltissimo, ho ascoltato per tante ore. Poi sono arrivato all'aeroporto JFK, sono atterrato, ancora avevo le orecchie questo brano, e ho visto un bambino che saliva la scala mobile al contrario, e mi sono ricordato di quando ero piccolo che mi mettevo autisticamente sul primo scalino a non andare da nessuna parte, e questo non andare da nessuna parte per me è molto poetico, una cosa che mi ha emozionato tantissimo. E in quel momento ho associato quella musica che avevo ascoltato per ore in loop in cuffia a quel bambino che era lui, a sua volta il loop, è nata la sequenza dell'aeroporto, che per chi ha visto il film c'è questo bambino che a un certo punto cammina da fermo, non muovendosi, con questa musica. Però è stata tutta una cosa che è nata insieme in quel viaggio, in quell'aeroporto. Che invece i critici hanno detto che ti hai respirato Le conseguenze dell'amore. No, assolutamente no, non ci ho proprio pensato. Poi ti parlo sempre della parte cosciente, io sul resto non mi permetto di mettere bocca. Coscientemente no, la scena è nata in un giorno, in un viaggio, vidi quel bambino, avevo le orecchie quella musica, ed era molto chiaro. È bellissima che era, la genesi della scena che c'era appena raccontato. Ma sei proprio un poeta delle immagini tu. Ecco, proprio a questo proposito, Piero, la composizione dell'immagine, questo senso pittorico da dove ti viene? Questo non lo so, però posso dirti che l'altra volta ho visto dei miei lavori, quelli là, diciamo, post-demenziali, subito dopo, e mi sono reso conto, senza accorgermene, che dalla prima inquadratura che ho fatto da ragazzino, quando non avevo nessuna consapevolezza anche di quello che stavo facendo, c'era questa volontà di farla, nel senso che le prime immagini, anche fatte con la macchina di mio padre scassatissima, se le vedi anche adesso hanno un'istintiva predisposizione per essere inquadrate in un certo modo, e quindi è qualcosa che probabilmente è istintiva, un po' come quando si suona in un certo modo. E poi sicuramente nel tempo ho coltivato l'emozione che mi reca vedere quelle cose, farle, vedere la gente che si emoziona vedendole, quindi l'ho anche un po' perfezionata in una fase più cosciente, però il come è nato, non posso dirti forse come l'ho migliorato, ecco. Come è nato non so dirvelo. Nel film, per esempio, abbiamo lavorato moltissimo in preparazione, perché poi alla fine il problema di fare un film è quello che non c'è mai tanto tempo, o il tempo non è mai sufficiente. Quello che a me piace moltissimo in realtà del mio lavoro è lavorare con gli attori, e per me non è mai sufficiente il tempo che ho, quindi poi sul set sembra una stupidaggine, però è così per me. Io non spendo tempo per fare le immagini, nel senso che se tu vieni sul mio set, sul mio lavoro, vedrai che arrivo sul set in 5 minuti facciamo l'immagine, dopo che tutte le altre ore sono dedicate agli attori e quell'aspetto, diciamo, della macchina di presa non voglio più che sia presente ciò che sto facendo. Io lavoro tanto tempo con gli attori, è la cosa che faccio di più, però è anche vero che invece lavoro molto tempo in preparazione prima di andare sulle a girare, per creare dei presupposti, ecco, creare i presupposti per cui si possano fare quelle immagini. Per essere semplice, in questo film la cosa che per esempio mi interessava era un rapporto di sovradimensione allo spazio, cioè volevo che lo spazio fosse molto più grande dei personaggi, quello che si chiama in pittura il rapporto tra la figura e il paesaggio, no? Mi interessava che il paesaggio fosse predominante, come l'arrivo sull'Etna, esatto, quello lì ma anche nella villa. Quindi per esempio abbiamo visto che questa villa che avevamo scelto non aveva i soffitti sufficientemente alti per poter fare questo rapporto, e quindi abbiamo dovuto ricostruire delle stanze nelle stalle di questa villa, cioè delle stalle dove mettono le mucche, abbiamo tolto tutto, abbiamo fatto che erano degli hangar diventati, e abbiamo ricostruito le stanze della villa che in realtà non sono quelle vere, perché ci interessava che l'altezza. Infatti era molto comico come abbiamo fatto, abbiamo preso un assistente alla regia, abbiamo seduto in questa stalla vuota, fatto fotografie e poi abbiamo calcolato, diciamo, la distanza del soffitto, quanto doveva essere, abbiamo costruito poi i soffitti in relazione a quel ragazzo seduto su quella sedia. Quindi in realtà c'è un lavoro di preparazione molto lungo, poi quando sono sul set però si va veloci, è molto istintivo. Continuiamo con Leonard Cohen stavolta. Here. on your phone. Leonard Cohen, Waiting for the Miracle. E adesso, mentre continuiamo nell'ultima parte di trasmissione, ci teniamo in sottofondo, perché dura più di 11 minuti, quasi 12 minuti, la Lituans Chambers Orchestra con Trisagion. Mi piacerebbe parlare anche un po' degli sceneggiatori, no? Sì. Che hanno lavorato con te. Quattro autori, pure loro poco più che trentenni, giovanissimi, un'opera importante anche per loro. Insomma, com'è nata la vostra, come vi siete conosciuti, come, perché avete collaborato, perché li hai scelti? Mi racconti un po' di cose? Sì, è molto semplice. Io ho fatto il centro sperimentale, che è la Scuola Nazionale di Cinema, e loro studiavano con me, loro facevano sceneggiatura, io studiavo regia. Quindi ci siamo conosciuti tra i banchi di scuola, come si dice, e li ho scelti nel senso che ho lavorato in quegli anni con tutti loro, perché facevamo i cortometraggi, quindi poi negli anni ho capito che loro erano quelli con cui volevo scrivere il film. E una volta al bar del centro sperimentale ho raccontato questa storia, che volevo fare questo film, e abbiamo iniziato a scriverlo. Ma la cosa bella è che l'abbiamo scritto quasi inventandoci un metodo, nel senso che nessuno di noi aveva scritto un film prima, okay. E quindi avevamo molto tempo perché studiavamo cinema e non sapevamo come si scrive, cioè un po' si insegna al centro sperimentale, ma non avevamo un nostro metodo. Chi avevi come maestro di sceneggiatura? Scarpelli? Loro avevano Francesco Piccolo, hanno avuto Francesco Bruni, che era il, diciamo, il docente resident, diciamo. E poi c'era Bruni. Poi c'era Giorgio Arlorio, questi sono stati anche molto importanti per noi, questi tre, perché io mi ricordo che gli facevo leggere la sceneggiatura, Francesco è stato molto vicino, abbiamo discusso moltissimo. Però noi abbiamo scritto, la cosa divertente è che il modo in cui abbiamo scritto questo film è un po' folle, nel senso che non sapendo come si fa l'abbiamo scritto tantissime volte in maniera diversa. Cioè io non è che avevo la percezione con delle bozze se il film funzionava o meno, chiedevo, no, dobbiamo scriverlo tutto con i dialoghi perfetto col finale, poi lo leggevo e dicevo, no, non funziona, dobbiamo riscriverlo. E quindi abbiamo scritto tantissime stesure. Mi ricordo che una stesura era un film in costume. Poi ecco che ritorna Visconti. Esatto, ed era un film in costume. Poi abbiamo scritto un'altra dove in realtà si doveva vendere una casa. Comunque è ispirato al dramma La vita che ti diedi di Luigi Pirandello, messa in scena nel 1923, scritto pensando ad Eleonora Duse, che non la interpretò. Non ebbe successo, tanto da essere riproposta 20 anni dopo da Paola Borboni. Quindi insomma anche un'ispirazione un po' pericolosa, sì, nel senso che all'epoca non hanno avuto successo, e neanche adesso si è messo nei guai da solo, no, come però si in dice. Realtà Pirandello è stato un riferimento posteriore, nel senso che noi abbiamo scritto il film che parlava di questa madre, cioè della, senza raccontare la storia, e un amico mio un giorno mi ha detto, dovresti leggerti La vita che ti diedi, perché dal punto di vista narrativo non c'entra nulla, ma tematicamente in quel testo c'è quello che state raccontando. Quindi io non l'ho letto, l'ho fatto leggere agli sceneggiatori perché avevo un po' paura di farmi influenzare dall'aspetto dell'immaginario di Pirandello, perché eravamo quasi sotto riprese, e loro invece, leggendo quel libro, hanno preso delle cose che ci hanno molto aiutato a precisare meglio i personaggi. C'è stato quasi una sorta di strumento finale per chiudere la sceneggiatura, però non è nato da lì. E poi a me piace tantissimo come hai tratteggiato i personaggi, no? E le donne. Le donne, queste donne bellissime, queste donne dolenti, però anche molto forti, con questa, hanno questa forza dentro dell'immaginazione, della fantasia, no? Parlo per la giovane, no? Mentre per la madre questa forza del ricordo, dolentissima. E invece gli uomini sono finiti un po' in se stessi, insomma, cioè, anche se poi il protagonista è questo uomo, questo giovane che non c'è più, no? Però non c'è. E però c'è. C'è sempre, insomma, in ogni oggetto, in tutti i ricordi, cioè si parla sempre di lui, anche con Giorgio Colangeli, insomma, un bel personaggio che parla pochissimo, no? Però questo, come tratteggiato le figure femminili, capita molto raramente tra i registi italiani che ci sia questa raffinatezza e questa delicatezza e questa sensibilità nel riuscire a tratteggiare le donne. È una cosa molto poco comune, vero Federico? Non trovi? Che ha fatto una bellissima cosa Piero? Sì, questo è vero, io dico questa cosa, nel senso che per un regista la cosa più importante è innamorarsi dei personaggi e degli attori, secondo me, nel senso che io mi rendo conto che quando vivo qualcosa di vicino all'innamoramento, e quindi quando dico innamoramento vuol dire che desidero guardare quella cosa, desidero capire fino in fondo cosa sta pensando, come un innamorato fa quando sta accanto alla persona che ama. In quel momento lì per me è tutto facile, cioè so esattamente dove mettere la macchina presa, so cosa dire a un attore, perché so cosa vorrei. E quindi probabilmente innamorarmi di un personaggio femminile è istintivamente più facile, paradossalmente, che innamorarmi di un personaggio maschile. È vero, in questo film i personaggi forti sono donne, gli uomini o sono silenti o addirittura sono assenti, cioè anche se il protagonista è il ragazzo, non si vede mai, è quasi omesso. Però questa cosa qua l'ho fatta in maniera molto istintiva, non è una cosa voluta. Studiata? No, forse è colpa di mia madre. Io ho soltanto le ultime due domande, poi giuro che sto zitta, mettiamo la musica, non parlo più, è arrivata l'attica blu, sto a rosicà. Ma non vanno mai in ferie questi? Sì, esatto. E dai, no? io povero Luca, Luca è di una diligenza sempre precisa, precisissimo, vabbè, non perdiamo tempo a parlare di Attica Blues, veramente. Guarda, sono innervosita. No, ma li adoro Attica, sto sempre con le cuffiette quando vado via da qua a sentirmi la loro trasmissione, l'amo. Vabbè, però due, l'ultime due domande per Piero. Allora, innanzitutto, però questa mi rispondi alla fine, che cosa stai, che cosa c'è in cantiere, che cosa stai per fare, perché io aspetto il prossimo film. E poi un'altra, la domanda invece, quella un po' magari più, che non è poi una domanda, cioè è proprio, cioè, una richiesta: me lo fai il prossimo film più per raccontarmi una storia, che è solo una storia, senza andare a cercare troppe immagini, troppe cose? Me la racconti una storia tu, perché io la vorrei sentire, una storia raccontata da te, che sei una persona così sensibile, così, così bella, così profonda, così intensa. Mi piacerebbe sentire una storia, senza cercare troppi fronzi e lazzi, mm-hmm, senza troppe inquadrature, senza troppe cose. Me la racconterai? Non lo so, nel senso che non dipende da me, nel senso, non dipende da ciò che voglio. Tendenzialmente quello che sto scrivendo adesso è una cosa molto legata a questi personaggi che inizio a immaginare, a cui mi sto affezionando, quindi tendenzialmente quello che mi guiderà sarà cercare di creare un'empatia molto forte tra quello che vivono i personaggi e ciò che lo spettatore vedrà, e quindi in questo senso lavorerò per creare questa cosa. Sulla silenziare, voglio dire, l'immagine è un qualcosa che, se lo farò, vi prego chiamatemi e rimproveratemi. No, ma io non voglio dire questo, però mi piacerebbe che tu raccontassi qualcosa che mi appartiene, vorrei sentire una storia che mi appartiene. Ho capito cosa dici e ne riparleremo, mi dirai tu cosa. Non fatto. Vedo l'ora. Okay. Senti Piero, il tuo rapporto con la Sicilia? Il rapporto è arrivato nel frattempo il messaggio di quel brano Butan. Che dice adesso Butan, ce lo sento. Solo Butan. Allora intanto dimmelo così lo cerco. No, si chiama, guarda, leggi qui. No, ma metti la base così leggiamo noi. Leggi. Tutto hanno cambiato. Il rapporto con la Sicilia è un rapporto molto semplice. Per me la Sicilia è qualcosa che è molto vicino all'infanzia. Ho vissuto l'infanzia. L'idea che ho di Sicilia è un'idea legata a ciò che per me sono i primi anni di vita, e quindi è qualcosa di trasfigurata, qualcosa che ha a che fare con quello che io chiamo i primi incanti, sì, il momento in cui ti meravigli, e quindi quelle atmosfere sono sicuramente ormai il tessuto su cui ho costruito l'immaginario. Anche adesso la cosa che sto scrivendo non ha nulla a che fare con la Sicilia, per esempio, però mi rendo conto che anche se geograficamente non sarà fatta in Sicilia, le atmosfere, i ritmi, quel modo di raccontare, di immaginare, è legato alla Sicilia. Però una cosa che posso dire della Sicilia, per non parlare di me, io trovo per esempio in certi libri, in certa letteratura, quello che per me è la Sicilia. E se devo citare uno scrittore, cito Bufalino, ecco. Quando leggo Gesualdo Bufalino, da lettore ritrovo in quel tipo di scrittura qualcosa che mi appartiene moltissimo, in maniera viscerale. E quindi ecco, se dovessi dare un riferimento, per non parlare di quello che sono io, darei quel tipo di letteratura. Ecco, la Sicilia per me è quella che Bufalino ha raccontato meglio di me. Che poi nel film è una Sicilia strana, perché è molto così legata all'acqua. Questa, cioè, a me è anche un è po'. Vero. È vero, però in realtà la Sicilia, che voglio dire, sì, è un'isola, cioè il mare e tutto quanto, però una Sicilia dell'entroterra. Sì, il mare infatti non c'è nel film, ci sono al legata massimo dei laghi. Ai laghi, esatto, dei laghi. Sì, io devo dire che i luoghi, le location cosiddette, i paesaggi, o meglio, li scelgo in realtà sempre pensando a una cosa: a qual è il paesaggio che fa risuonare con più forza ciò che il personaggio sta vivendo in quel momento. Cioè, per me è semplice, io immagino il personaggio, immagino quello che sta vivendo il personaggio interiormente, e lo colloco in quel paesaggio, in quel luogo, che secondo me farà risuonare, amplificherà come cassa armonica quasi quello che il personaggio in silenzio sta vivendo. Quindi la Sicilia che ho raccontato è una Sicilia che è molto legata a quello che i personaggi vivono. I paesaggi dell'Etna, quei laghi, erano semplicemente dei luoghi in cui io immaginavo, dicevo, se metto lì il mio attore in quel momento, in questo posto, succede qualcosa che Lo fa, Piero Messina lo fa, lo sa fare nei suoi film, nel suo film, anche nelle cose passate, guardatele se ne avete la possibilità. Piero Messina sa, poeta dell'animo e poeta anche dell'immagine, bravo regista, bellissima anche questo film. continuiamo a sentirci un altro po' di musica. Sono le 16.01, siamo quasi in chiusura, Fede, dai. Sì, io volevo rispetto alla, è una coproduzione italo-francese, sì. Come mai? Perché per diversi motivi. Il primo è perché il personaggio della ragazza l'avevamo scritto francese, perché mi serviva, mi interessava raccontare un personaggio che veniva, veniva in Sicilia ed era, diciamo, estraneo a quel mondo. Mi, okay. mi piaceva raccontare un personaggio spaesato, quindi avevo scritto un personaggio francese e questa cosa ci ha aiutato poi a legare con la Francia. Poi c'è stata la Binoche che ha accettato di fare questo film, e quindi unico in film italiano che ha fatto la Binoche. Lei è stato stupendo, il nostro rapporto, il come è nato. E però, diciamo, il suo interessamento ha fatto sì che il film in maniera anche fisiologica prendesse dei finanziamenti francesi. Poi devo dire che il mio produttore, che è Nicola Giuliano, ha collaborato molto spesso con Fabio Conversi, che è un coproduttore, quindi diciamo c'era un asset collaudato italo-francese della mia produzione, quindi un po' il gioco è stato molto semplice costruirlo in questo caso. E anche pure forse il fatto che un paio d'anni prima, con Terra, col corto che raccontavi prima, noi eravamo stati in una sezione del Festival di Cannes, e lì in quel momento, grazie a quel passaggio a Cannes, avevo legato anche con un po' col mondo francese, con alcune produzioni, quindi okay. È stato un po' tutto. E che poi è anche un po' più sensibile a un certo tipo di cinematografia rispetto alla cinematografia italiana, no? Forse, anche se mi dicono che anche lì meno rispetto a come noi immaginiamo, nel senso che io la pensavo come te. Devo dire che poi ho vissuto un po' in Francia in questo periodo per lavorare per questo film, e mi sono reso conto che poi non è così tanto diverso dall'Italia. È sicuramente tutto più grande, quindi c'è più spazio perché c'è più spazio, ma non perché c'è più attenzione. Semplicemente c'è un'industria più grossa e quindi si fanno più film, e quindi anche più film d'autore. Beh, dai, chiudiamo perché... Sì, chiudiamo. C'è Luca lì là. Guarda, i brani... Io qui ho trovato, rispetto al Wu-Tan Clan, che sul tuo SMS c'è scritto Paper, ma legato a Wu-Tan Clan c'è Paper Plate. Io non so se sia... Chissà se è questo. Non so se è quello. Non so se è quello. Vabbè, perché... Vediamo, sentiamocelo. Intanto io... No, se Wu-Tan Clan andrà bene ugualmente. Ok. Fede, salutiamo tutti adesso o salutiamo dopo questo brano? Salutiamo tutti adesso, ci diamo appuntamento all'ultimo giovedì di agosto? O... Guarda, adesso non so... C'ho io l'agenda scarceranda. Io sto ci sarò a agosto, quando te pare, perché cioè, non ci mai sto in vacanza. Ci sto a agosto, quindi quando vuoi ci sto. Eri tu che mi sembrava che non c'eri, sai? Allora, diciamo che sarà il primo settembre, giovedì, sì, primo allora settembre. Niente agosto? Io mi sa di no. Vabbè, allora, vediamo, dai, ragazza, lasciamo un po' Roma, in sospeso. Se ci sei, telefonami, facciamo una puntata. Piero Messina, grazie a voi. Stato qua con noi. Avremmo voluto parlare con te ancora per tanto, ma speriamo il prossimo film, che arriva presto, così ci rivediamo. Io saluto tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, ringrazio questa radio. Come sempre alla fine di quest'anno, diciamo, con l'inizio dell'estate, per averci concesso questo spazio all'interno di queste frequenze libere e indipendenti dal 1977, vi ricordo di sottoscrivere e di sostenere la radio quanto potete, non è importante quanto, ma che voi lo facciate, perché questa radio non vive di aria, le bollette arrivano, ci stanno un sacco di cose da pagare, e perché rimanga libera e indipendente così come è stato fino adesso c'è bisogno del vostro sostegno, anche perché la radio è vostra e degli ascoltatori, non è di nessun altro, quindi insomma di chi se la sente. Vi ricordo che per sottoscrivere la radio il conto corrente postale è 6180 4001, è testata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 Roma. Poi c'è il PayPal, il crowdfunding sul sito, trovate tutte le coordinate per farlo senza andare alla posta. Fede, grazie di tutto, è stato bellissimo. Ti voglio bene. Bene, anch'io. Allora, l'indirizzo di posta elettronica tracce di cinema@ondarossa.info, c'è la pagina Facebook e sul sito internet della radio, sull'home page trasmissioni Tracce di Cinema. Buon proseguimento, grazie ancora Piero. O forse agosto. O forse agosto. Grazie a voi.